24 mattino. Rieccoci qui, 7 e 17 minuti, ancora una buona giornata ad Anna Migliorati. Eccoci qui, torniamo pronti con le prime pagine dei giornali in edicola. Allora, il tema ovviamente a dominare oggi è quanto avvenuto ieri al Tribunale di Milano, un fatto che ha lasciato davvero sconcertati a Milano e non solo, ma che ha anche suscitato un ampio dibattito per come va interpretato e per cosa bisognerà fare per una maggiore sicurezza, ma non solo. Allora, la carrellata come sempre delle prime pagine, poi entreremo nel dettaglio. Corriere della Sera, morte a Palazzo di Giustizia, imputato di bancarotta, spara in tribunale, fa 3 vittime. Le falle che hanno reso possibile l'ingresso con un'arma, tesserino falso e varco senza metal detector. E poi le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, ora si accertino le responsabilità. La Repubblica, giorno di sangue in tribunale, La Stampa, terrore e morte in tribunale. E ancora il Messaggero, strage in tribunale per vendetta, Far West Italia titola Libero, senza difese la strage di Milano, il giornale, tribunale indifeso e strage il giorno. Come vedete i titoli si rincorrono più o meno sullo stesso tenore, la provincia pavese, Milano, spari in tribunale, 3 morti, vendetta in tribunale, il secolo XIX, sono veramente una carrellata, massima insicurezza, così il Fatto Quotidiano, oggi il Tribunale, domani l'Expo, così scrive il Fatto Quotidiano. E poi il Manifesto, in aula con la pistola, imputato fa una strage, Manifesto dove però l'immagine è quella di invece Renzi e De Gennaro, i compari, questa è l'altra notizia che troverete su un po' su tutte le prime pagine, nessun dubbio su qualità e competenza di De Gennaro, il rottamatore Renzi spegne le critiche del presidente PD e davanti alla stampa rinnova la fiducia al capo di Finmeccanica, la Camera vota nella notte intanto la legge sulla tortura. Parleremo anche di questo andando un po' nelle pagine interne. Il Messaggero, anche in una giornata come ieri, sceglie questa comunque come apertura. Follia, omicida in tribunale, scrive Avvenire. Dunque, questo sicuramente è il tema che domina, ma c'è anche dietro tutto un dibattito. E allora andiamo un po' a vedere cosa scrivono oggi. Cominciamo dal Corriere della Sera, Gian Giacomo Schiavi, quei caduti sul fronte della legge. Questo è il primo aspetto che ha destato l'angoscia, lo stupore di tutti ieri. Un cortocircuito di follia, una leggerezza nei controlli e 3 morti sulla scia del dovere, del semplice esercizio della responsabilità. Di colpo Milano si scopre fragile e vulnerabile nel luogo simbolo della giustizia e della sicurezza. La gente in strada, scrive Gian Giacomo Schiavi, si chiede come mai, come è possibile sparare, uccidere e ferire in un'aula di giustizia. Quale mente diabolica c'è dietro una messa in scena del genere e che cosa può succedere ovunque ormai se i presidi di sicurezza vacillano? Questa è un po' la paura che suscita anche tutto questo. Sarà rafforzato l'ordine pubblico anche in vista di Expo, ma nulla potrà risarcire quelle vite che dovevano essere meglio protette. Oggi si può solo dire che è assurdo morire così da servitori dello Stato, da avvocati, da semplici cittadini, in un luogo dove il rispetto della vita deve essere una garanzia per tutti. E questo è il primo aspetto, è lo stupore di quel che succede. Ma non c'è solo lo stupore. La Repubblica, Gad Lerner, la rabbia con la pistola. Aspettavamo il terrorista islamico, invece è arrivato il conte Tacchi a seminare la morte nel centro di Milano, umiliando i servizi di sicurezza di una metropoli che sta preparandosi all'esposizione universale. E questo è il secondo aspetto, ma ne parleremo. Intanto scrive Gad Lerner, scartata la matrice jihadista, si era pensato a un episodio di sociopatologia da disagio metropolitano, e invece così non è. Sono migliaia invece nell'interland milanese gli uomini di mezza età che dopo aver perso il lavoro entrano nel tunnel della malattia, ma anche questo non è. Niente di tutto questo. Il pluriomicida Claudio Giardiello sembra spuntato piuttosto dalla scenografia del film Il capitale umano di Paolo Virzì. Somiglia maledettamente all'immobiliarista spiantato di Nossola, che nel film è interpretato da Fabrizio Bentivoglio, un arrampicatore disposto alla truffa pur di ascendere fra i nuovi ricchi della Brianza. La rovina economica, dopo il miraggio dei milioni facili sottratti ai bilanci, ha mandato fuori di testa uno dei tanti avventurieri, scrive Gad Lerner, nostalgici della Milano da bere, gente che al cospetto di un giro d'affari troppo grossi, così grossi da richiamare a Milano i capitali stranieri, tagliando fuori ciò che resta della borghesia ambrosiana, si aggira ora sperduta ai margini, ricacciata nella mediocrità. L'allarme sociale non ha il volto degli emarginati di sempre, ma l'arricchimento è un terno all'otto, fare fatica è la sorte degli sfigati, una malattia sociale oltre che una malattia mentale, così scrive Gad Lerner. E poi c'è l'altra questione però, che è quella della sicurezza, perché Milano aspetta l'Expo. E allora, sarà questa la questione, non sarà questa? E poi c'è il terzo tema, quello sollevato invece dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che subito ieri è intervenuto e ha parlato. Allora, Stefano Folli sulla Repubblica. Il cordoglio di Sergio Mattarella per la tragedia di Milano è stato immediato, le sue parole erano dense di commozione, prive della ritualità formale che talvolta domina in circostanze analoghe. Ha preso la parola di fronte al plenum del CSM, ha lanciato un messaggio, dice Stefano Folli, che è politico istituzionale. Il primo, si può dire, del suo settennato. Basta gettare discredito sui magistrati, dice il Presidente della Repubblica con grande veemenza. Prima pagina anche del Sole 24 Ore, imputato di bancarotta, fa strage in tribunale, 3 i morti. Ebbene, andiamo nelle pagine interne del Sole 24 Ore, dove la testimonianza è quella di Livia Pomodoro, che per tanti anni è stata a Palazzo di Giustizia di Milano, e dice che ci sia di insegnamento ciò che ha prodotto un così grande dolore, non solo perché non si ripeta, ma perché si ritrovino davvero i valori che uniscono e che comunque fanno sentire i magistrati, i funzionari, tutti quelli che operano all'interno dell'ordine giudiziario, orgogliosi e fieri del loro mestiere, così riconosciuto da tutti. È questa la questione? È questo il tema su cui bisogna soffermarsi? O forse no? Libero. Maurizio Belpietro firma un commento che è di tutt'altro tenore e definisce inappropriati invece tutti questi commenti. Dopo la strage, scrive Belpietro, più che discutere se d'armare la mano di Guardiello sia stata oppure no la delegittimazione dei magistrati, forse sarebbe il caso di prendere in esame quale sia il funzionamento dei controlli del sistema di sicurezza, e non soltanto in tribunale ma anche altrove, già perché tra meno di un mese a Milano si inaugurerà l'Expo e entro l'anno a Roma si celebrerà il Giubileo. Se pazzi o terroristi pianificano di entrare in un luogo super affollato e di aprire il fuoco tra la gente, noi come li fermiamo? Se non siamo in grado di proteggere il Palazzo di Giustizia perché ci sono sempre un ingresso riservato, cioè dove non si fanno i controlli, e un'uscita di sicurezza, cioè una via di fuga, come proteggiamo le persone che visiteranno l'Expo? Ne vogliamo parlare senza possibilmente straparlarne? Così dice Belpietro. E allora parliamone, lo trovate su molti quotidiani, c'è innanzitutto sul Corriere della Sera quella che viene definita la cittadella di Milano. Come funziona? 5.000 accessi al giorno, il rebus dei controlli. Andiamo nelle pagine interne, pagina 8 del Corriere della Sera. L'entrata per i legali senza il metal detector, solo 16 guardie controllano 5.000 persone, all'ingresso nessuna perquisizione, l'arma introdotta nell'edificio, l'accesso agli uffici dei magistrati, tante cose, si scrive, non hanno funzionato. Un sistema di telecamere a circuito chiuso fa capo a una centrale di vigilantes, ma la polizia penitenziaria e i carabinieri sono in aula solo in presenza di imputati detenuti. La pattuglia di militari all'interno in passato presidiava anche i portoni, ora non è più così. Come si è potuto muovere liberamente Giardiello. Mentre scendeva le scale, ha perfino sparato a un commercialista che era stato coinvolto nelle sue vicende e che aveva incontrato per caso. A due passi dai vigilantes disarmati che prima aveva già ingannato. Di fronte a un gesto isolato, le difese difficilmente possono essere assolute, dice il procuratore di Milano Bruti Liberati, ammettendo l'evidenza dell'esistenza di falle in un sistema di sicurezza che sinora aveva sempre funzionato. Ma d'altra parte basta che non funzioni una volta sola. Vigilantes, chi controlla? Come funziona il controllo nel palazzi di giustizia? Ce lo spiega a pagina 6 del Messaggero, il Messaggero. Allora, regole diverse innanzitutto in ogni tribunale. Attenzione, che succede? Che un analogo pericolo incomba su un altro dei 135 tribunali italiani, nessuno può escluderlo, la premessa del Messaggero. Avvocati, magistrati, personale, giornalisti accreditati non passano mai attraverso i controlli dei metal detector, per esempio a Roma. A Palermo la sicurezza è ai massimi livelli, invece, specie dopo le minacce al PM della trattativa Stato-Mafia Antonino Di Matteo. Tutti, inclusi avvocati e magistrati, qui invece hanno l'obbligo. Perché? Perché il controllo degli uffici giudiziari spetta al comune, ad eccezione della Corte di Cassazione e dei palazzi di giustizia di Roma e Napoli. Non è uguale dappertutto, perché sono i comuni ad occuparsene, così come del Palazzo di Giustizia di Milano. L'appalto se ne è occupato il comune di Milano. Eppure da settembre si cambia, scrive già il Messaggero. Guarda caso, proprio quest'anno è entrata in vigore la nuova legge, la legge di stabilità del 2015 ha previsto che le spese per gli uffici giudiziari, comprese quelle per la sicurezza, saranno trasferite dai comuni al Ministero della Giustizia. Ecco perché il ministro Orlando, dopo la sparatoria a Milano, ha deciso di convocare in via d'urgenza una riunione con tutti i procuratori generali. E non è detto che l'accentramento delle spese comporterà una maggiore efficienza. Anche questa è Spending Review, si cambia. Speriamo in meglio. 7:29 minuti, una piccola pausa, c'è altro sui giornali di quest'oggi, torniamo tra pochissimo. 24 mattino. Allora, settimane decisive queste per alcuni temi, avevamo detto martedì, vediamo che è successo in queste settimane decisive. Sole 24 ore di quest'oggi, la Grecia rimborsa il Fondo Monetario Internazionale, capitolo Atene, la battaglia tra Bruxelles e Atene, qui un passo decisivo in qualche modo c'è stato ed è Atene che ha pagato, saldata la scadenza, la rata dei 450 milioni, ma resta il rischio default. Atene dice dal 24 aprile le casse dello Stato saranno vuote. Che è successo? Carlo Bastasin, chi bleffa tra Atene e l'Europa nei negoziati sugli aiuti. Non deve sorprendere che Varoufakis sia corso a Washington a pagare il fondo monetario dopo averlo dipinto come il diavolo. Nel contratto tra la Grecia e il Fondo di Stabilità Europeo è indicato che se il fondo monetario non fosse stato pagato avrebbero avuto il diritto di forzare un default della Grecia. Ipotesi del tutto irrealistica, ma nel clima conflittuale della politica ateniese qualcuno era pronto a far leva sul codice penale, denunciare i responsabili di governo per tradimento nei confronti dello Stato. È solo un esempio di quanto sia complesso il negoziato tra Grecia e partner. Una partita di poker durante un braccio di ferro complicato da una roulette russa. La partita di poker si gioca sulla liquidità disponibile ad Atene. I tedeschi, per esempio, ricordando un identico episodio del 2012, sono convinti che Varoufakis stia bleffando e che il governo, controllando più o meno a metà del PIL greco, sia in grado di reperire liquidità da agenzie, società pubbliche o dalle amministrazioni locali. Insomma, chissà. Intanto un primo passo è stato fatto ieri, intanto Atene ha saldato, sicuramente ce ne sarà ancora da dire. Altro tema a proposito dei nostri invece enti locali, che è successo? Ieri ci siamo lasciati con la trattativa in corso tra Palazzo Chigi e i comuni per i tagli. Pace già fatta, così almeno sembra, tra i comuni E Matteo Renzi, prima pagina del Corriere della Sera, tasse regionali su per 5 milioni di italiani, già decisi gli aumenti dell'addizionale IRPEF per i contribuenti di Piemonte, Lazio e Campania. Pace coi comuni, si aumenta però da un'altra parte, da qualche parte i soldi, come abbiamo sempre detto, d'altra parte devono arrivare. Andiamo nelle pagine interne del Corriere della Sera, pagina 12, appunto, il governo ai comuni, tagli più equi tra città e città, qualche aggiustamento, il conto per i cittadini, i dati in euro, i tagli delle risorse statali alle città metropolitane suddivise per ogni abitante saranno un po' cambiati, 25 euro a Firenze, 5 euro a Bologna, così i tagli. Attenzione però, come diceva appunto il come si diceva da qualche altra parte, però si taglia, e allora eccoli gli aumenti invece arriveranno dalle regioni. Finora, secondo gli aumenti dell'addizionale IRPEF 2015 già deliberati dalle regioni, sono almeno 5,1 milioni i contribuenti che subiranno un aumento del prelievo che si aggiunge agli incrementi dello scorso anno che colpirono 7,2 milioni di cittadini. Che succede? Che si tratta di Liguria, Lazio e Abruzzo che l'hanno già aumentato per scaglioni di reddito l'addizionale. L'Emilia Romagna ha previsto un prelievo con piccoli risparmi per i redditi fino a 40.000 euro. La Lombardia ha invece penalizzato i redditi più alti. Fatto sta che il giro è sempre quello, e attenzione perché i comuni hanno tempo fino alla fine di maggio per approvare il bilancio e quindi rideterminare eventualmente anche loro l'addizionale IRPEF. Intanto però un'altra cosa arriva, 5 euro per chi viaggia, il caso che succede alle famose città metropolitane dove si taglia di più. Un'altra tassa sui biglietti aerei, scrive Antonella Baccaro. Ebbene sì, esatto, perché quando si acquista un volo già ora i balzelli ne appesantiscono il conto. Esiste, attenzione, un prelievo di 3 euro a favore del fondo che serve per alimentare gli ammortizzatori sociali delle compagnie aeree a partire dall'Italia. 5 euro in base a una legge del 2012 che i comuni possono imporre come addizionale in relazione al transito di passeggeri. 1 euro al bilancio dello Stato, 50 centesimi servono a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendio e si può già arrivare quasi a 10 euro. La nuova tassa, 5 euro, andrebbe alle città metropolitane. Comuni che e regioni che aumentano le tasse locali in vista dei tagli, ma comuni che le tasse poi le devono anche riscuotere. Pagina 7 andiamo della Stampa. Quei comuni incapaci di farsi pagare 5,9 miliardi di tributi. Al sud riescono a incassare solo la metà del dovuto. 3,2 miliardi, la cifra che i comuni italiani riescono a intassare come tasse sui rifiuti. Dovrebbero essere 6,8 miliardi, scrive oggi la Stampa. 141 milioni, la somma che le città riescono a racimolare con le bollette dell'acqua. In teoria l'introito sarebbe di 738 milioni. Una cosa è quel che si deve riscuotere, una cosa è quel che si riscuote. Vi faccio arrabbiare ancora un po'. La prima pagina del Fatto Quotidiano, che dicevamo titola massima insicurezza, oggi il Tribunale, domani l'Expo, però ci sono altre due notizie. Svaligiata Forza Italia, 610 milioni in 13 anni, alla canna del gas, Forza Italia, scrive oggi il Fatto Quotidiano, in bolletta per telefono e polizie. Dai soldi per la TV della Libertà della Brambilla ai contratti agli amici, sprechi, favori e lusso, tutto finito. San Lorenzo e Lucina rischia lo sfratto. L'inchiesta del Fatto Quotidiano che oggi ne pubblica anche un'altra che riguarda il terzo settore e la riforma del governo. No profit a scopo di lucro, passa il metodo Buzzi, così scrive il Fatto Quotidiano. La Camera ha approvato la legge delega che riforma il terzo settore, 297 voti a favore, la maggioranza, rappresenta gli interessi rilevanti della strategia politica del renzismo, così scrive oggi il Sole 24 Ore. La provincia pavese, sentite un po' che succede a proposito di soldi da trovare e da cercare, chissà se anche questa è una via, a caccia dell'oro con le idrovore, a Vigevano protestano i cercatori tradizionali, così si rovina il Ticino. Cercatori d'oro industriali nel Ticino con potenti pompe idrovore, un metodo che ha provocato la rivolta dei cercatori tradizionali, quelli del setaccio. Cioè, la rivolta dei cercatori d'oro. Ci provi anche tu, Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno. Che buongiorno. Dici, per incrementare i due eurini potrebbe essere un'idea. Non lo so, forse abbiamo finalmente scoperto dove è andato in vacanza Alessandro Milan. A potrebbe essere partito con il setaccio. Ti volevo dire, tu stavi parlando del primo voto per la riforma del terzo settore che adesso passa al Senato. Sul Sole 24 Ore di oggi c'è anche la notizia di invece una norma che diventa definitiva, cioè la riforma della custodia cautelare, che da noi effettivamente è usata parecchio rispetto ad altri stati europei, e adesso invece cambia decisamente registro, perché la norma è stata approvata definitivamente e, come scriviamo sul Sole 24 Ore di oggi, il carcere diventa un'eccezione. Tutte le i casi in cui può essere applicata meno rispetto a quella attuale sono poi spiegati appunto in una serie di schede che sono sulla prima pagina di norme e tributi, oggi nella parte di norme e tributi. E tra l'altro, a proposito di modifiche, ma qui, perdonami Anna, andiamo un po' su Radio Fisco, tu sai che a volte io ho bisogno di questi spazi qui Radio Fisco. Io avevo proposto ad Alessandro anche una sigletta, perché una sigletta per Radio Fisco, ci possiamo lavorare, perché è stata avviata una revisione profonda degli studi di settore. Non è importante che tu e io capiamo, Anna, però chi vuole invece sapere tutti i dettagli può andare a leggere sulle pagine norme e tributi il contributo di Marco Mobili e Giovanni Parente. Mauro Meazza scherza e sa tutto. No, assolutamente no, non diffondiamo queste notizie false. Voglio dire solo che stanno appunto approntando una pesante revisione dei correttivi. Altro non posso dire altro, Anna, abbi pazienza, non posso dire altro. C'è già la coda all'edicola, tranquillo. Ti voglio parlare nuovamente degli imbullonati, perché anche oggi raccontiamo questa triste vicenda della tassa sugli imbullonati. Passiamo allora ancora in territorio fiscale, e oggi il turno delle acciaierie. Ci sono stati 6 aumenti, tipo il prelievo di IMU che si è quintuplicato, una tassa che diventa 5 volte tanto. Insomma, beh, abbiamo appena letto i famosi 5 euro ancora sugli aeroporti, stanno diventando come le sigarette, insomma. E questo poi c'è anche questo problema dei tagli alle città metropolitane, che, come informa Gianni Trovati, tra l'altro sempre oggi sul Sole 24 Ore, si pensa di coprire magari con una mini tassa sui viaggi aerei. No, scusa, non voglio essere sarcastico, ma mini tassa sembra già un po' una contraddizione in termini, perché insomma poi la tassa o c'è o non c'è, e alla fine, come dire, fa in tempo a pagarla Alessandro Milan tornando, chi lo sa, potrebbe essere il primo. Potrebbe essere il primo, a meno che non paghi direttamente in oro con ciò che ha setacciato dal Ticino, come dicevi poco fa. E ti voglio anche dire, noi parliamo sempre molto di lavoro, ne parleremo ancora di più da lunedì prossimo, ma non ti posso anticipare niente, casomai ti farò qualche confidenza a quattro occhi. Ti posso dire che oggi segnaliamo nelle pagine di Imprese e Territori che sta per ripartire la trattativa sul contratto del comparto assicurazione. Il contratto scaduto già da 2 anni, quindi è una segnalazione importante. Tutti i dettagli nelle parti di Impresa e Territori. E poi, ma non è naturalmente un augurio per nessuno, però voglio dirti che avanza a grandi passi l'approvazione del divorzio breve. Ne parliamo oggi, ne riferiamo del suo avanzamento alle Camere nelle pagine naturalmente di norme e tributi. Ci sentiamo lunedì. Ci dobbiamo salutare, no? No. Il nostro è un divorzio velocissimo. Lunedì torna Alessandro Milan, ti lascio il microfono. Accidenti. E allora traffico. 24 mattino. Cinque minuti ancora coi quotidiani in edicola. Allora, settimana decisiva, sempre a proposito di settimana decisiva, abbiamo aperto questa settimana con la sentenza di Strasburgo sul G8, invocata la legge sulla tortura. Ebbene, se ne è discusso ieri sera. Andiamo a pagina 15 della Repubblica. Il primo ok alla legge, pene fino a 15 anni per gli agenti. Il torturatore torturatore sarà punito con la reclusione da 4 a 10 anni se si procura sofferenza ulteriore rispetto a quella che deriva dalla semplice detenzione. Ci saranno aggravanti se a torturare è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri. La pena è aggravata da 5 a 15 anni. Dicevamo, settimana decisiva, tempi stretti per la legge, ma attenzione, perché il provvedimento deve comunque tornare al Senato, quindi approvata sì, ma solo in prima lettura. C'è ancora da aspettare, decisivo fino a un certo punto, e scrive oggi La Repubblica, ma lo trovate naturalmente su diversi quotidiani, non tutti i partiti già sono d'accordo. Quando la discussione in aula sulla spinta del Movimento 5 Stelle, che aveva chiesto il rinvio del voto, si era avviata sulla questione De Gennaro e sul G8 di Genova, è intervenuto il Ministro della Giustizia lanciando un appello alle forze politiche. La discussione sulla Diaz non pregiudichi un traguardo per tutto il paese, ha dichiarato Andrea Orlando. La richiesta che ci ha fatto Strasburgo non è di scrivere una norma su una vicenda specifica e quindi bisogna riflettere. E intanto la legge torna al Senato. Primo passaggio, settimana decisiva, primo passaggio. Parleremo tra poco, dopo GR24, già ve l'ho detto, ancora della vicenda, naturalmente, di quel che è successo a Milano e di sicurezza, però c'è anche un'altra questione di cui promessa da mantenere parleremo, ed è ancora la questione dell'Expo. L'ultima polemica riguardava, l'abbiamo letto ieri insieme, la vicenda Expo e Italy di Farinetti. Favorito o non favorito negli appalti, risponde oggi sulla pagina della Stampa, il quotidiano torinese, altro che favorito, un miracolo guadagnarci, un appalto regolare, polemiche misere, così dice Farinetti. Ci sarà da capire, già vi anticipo che l'avremo a Radio 24 questa mattina e quindi glielo chiederemo direttamente. Altre polemiche però, altre questioni ancora aperte quest'oggi, sono diverse. Un'altra carrellata ci porta sulle pagine invece del Messaggero. Nelle pagine interne, pagina 17, l'ultima polemica che arriva dal Vaticano, dalla Santa Sede, ambasciatore gay, lo stop del Vaticano. Che è successo? Il braccio di ferro in questo caso è con la Francia. Laurent Stefanini, nuovo rappresentante della Francia presso la Santa Sede, avrebbe dovuto insediarsi a marzo. E invece che succede? Il mancato giuramento, interpretato come un veto secondo i media francesi, e l'annunziatura di Parigi a premere per il no. Cattolico praticante, molto colto, di discrezione assoluta, già numero 2 dell'ambasciata francese presso la Santa Sede a Roma, poi consigliere per le questioni religiose, oggi responsabile del protocollo dell'Eliseo, nominato da Sarkozy, confermato da Hollande. Niente nel curriculum e nel temperamento di Stefanini lo predisponeva a diventare un caso, un affare che imbarazza da gennaio le relazioni tra la Francia e Vaticano. Niente se non la sua omosessualità. La vicenda, di cui si sussurra da qualche settimana, è stata tirata fuori ieri in contemporanea da siti e giornali francesi senza nessuna smentita né dall'Eliseo né dal Ministero degli Esteri. Il Vaticano non lo vorrebbe perché non sarebbe di suo gradimento. Ed è altra polemica che si riaccende anche sulle pagine intere della Repubblica, pagina 29, il gelo della Santa Sede, che dice: questione chiusa, la nomina viene considerata come una provocazione di Hollande e dunque nulla da fare. Altra provocazione, altra polemica, quella che va avanti ormai da un paio di giorni, del leader della Lega Matteo Salvini, che ha sparato a zero sui Rom parlando di ruspe che devono entrare nei campi nomadi. È stato oscurato anche da Facebook, se ne è lamentato ieri il leader della Lega Salvini, in sua difesa quest'oggi Libero. La parola zingaro, scrive Zingaro, Facebook caccia Salvini, la parola però è perfetto italiano, ormai caccia le streghe, scrive Libero, la dittatura dell'omologazione comincia così, con la revisione della lingua. Si cambiano alcune parole, se ne cancellano altre, si smussa e si livella. Questa parola di Francesco Borgonovo su Libero in un dibattito che va avanti. Così come dibattito è quello che si è aperto dopo la vicenda della donazione di un rene. Donazione di un rene da uno sconosciuto, ma vivente. Questa è il caso che ha aperto invece un altro dibattito. Ha deciso di, leggiamo tra gli altri, Michele Bocci sulla Repubblica, ha deciso di dare un rene a uno sconosciuto per puro spirito altruistico. È la prima volta che in Italia viene fatta una donazione cosiddetta samaritana. Non solo, il gesto di quella donna ha permesso, per una sorta di domino sanitario, di effettuare ben 6 trapianti in 4 ospedali in 2 regioni. È la prima volta, è accaduto a Pavia, il gesto della donna ha permesso di salvare, dicevamo, altre 6 persone. Tra il 2009 e il 2010 si è molto discusso di questo tipo di intervento da un punto di vista etico. Allora, è accaduto e il dibattito si è aperto. Pagina 28 della Stampa parla il Vincenzo Passarelli, che è presidente nazionale dell'AIDO, l'Associazione Italiana Donatori di Organi. Bella storia, dice, ma la scommessa è sulla sensibilità più ampia. Cosa ne pensa? Chiedono. È un bellissimo gesto quello di chi dona in questo modo, senza legami con la persona malata. Più in generale, è importante che si facciano i trapianti da viventi e i medici dovrebbero informare di più i pazienti su questa possibilità. Però, c'è un però, dice il presidente dell'AIDO, per noi questo tipo di donazioni non può che avere un ruolo sussidiario, perché non vorremmo che i trapianti da vivente riducessero l'attenzione su quelli da cadavere. Non ci dimentichiamo che questi ultimi sono legati a una responsabilità collettiva molto più ampia. Così il presidente dell'AIDO. C'è tempo, ancora un paio di minuti. Allora, abbiamo ancora un paio di segnalazioni. Prima pagina di Avvenire, allora, del tema ne abbiamo parlato anche noi questa settimana, vale a dire di quel che sta succedendo in Medio Oriente, i cristiani, ma non solo, le stragi nei paesi africani e medio orientali. Avvenire oggi pubblica un'intervista che vi segnalo al principe di Giordania: per fermare il terrore, ripartire dall'educazione, dice. Il Medio Oriente è bello se mantiene il suo coloratissimo pluralismo etnico-religioso. Di certo una voce fuori dal coro, quella del principe Hassan bin Talal, lo zio di Re Abdallah II di Giordania, una delle, delle personalità islamiche più impegnate nel dialogo. Così l'intervista oggi sull'Avvenire. Ma c'è un'altra gustosa e ben più leggero tema, leggero comunque fino anche questo, fino a un certo punto, che troviamo invece sulle pagine della Stampa. Andiamo anche qui nelle pagine interne. Sapete delle sanzioni alla Russia, della nuova rinnovata tensione. Che succede? Succede che Mosca ha deciso di dare battaglia anche a McDonald's. Pagina 16 della Stampa. Mangiamo a casa. Non è uno scherzo, mangiamo a casa, l'alternativa a McDonald's, la versione autarchica del fast food, il progetto che ha la benedizione di Putin. Mangiamo a casa potrebbe essere lo slogan di tutta la politica di Vladimir Putin nell'ultimo anno, ma per ora è il marchio di una catena di fast food autarchica, dovrà sostituire nel cuore e nello stomaco dei russi il McDonald's. Mega progetto, 41 punti ristoro e 91 negozi di cibo pronto e semilavorato, che ha già avuto la benedizione del presidente russo, anche perché dice molto di quello che vuole della sua Russia isolata anche dalle sanzioni e che ora mangia a casa. Ultima segnalazione, 7:54 minuti, c'è il giornale radio con tutti naturalmente gli aggiornamenti. Torneremo anche noi subito dopo, parleremo di Expo, era una promessa, ma parleremo naturalmente anche di quel che è successo ieri al Tribunale di Milano, tra pochissimo.